4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta bentornati, buonasera amici dei motori, questa è la trasmissione di Radio 24 in collaborazione con Quattro Ruote che questa sera vi propone la prova della Citroën C3 Picasso, poi l'inchiesta arrivata alla quarta puntata delle assicurazioni online e poi l'associazione professionisti Vetri Auto che precede il Salone di Ginevra in attuale svolgimento per una chiusura con i fiocchi, la traversata del deserto in Namibia fatta in moto in solitaria da Fulvio Dodic che è stato più volte nostro ospite. Tutto questo da qui a tre quarti d'ora, 21:45, vi teniamo compagnia insieme al nostro sito radio24.it e al nostro indirizzo 4 scritto in numeri ruote@radio24.it. Iniziamo alla grande con la prova della settimana, la Citroën C3 Picasso, bisognerebbe dire visto che è francese. Andrea Sansovini di Quattro Ruote, buonasera. Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ciao Andrea, allora introduciamo insieme a te un minuto per capire di che tipo di auto stiamo parlando. Allora, la C3 Picasso, e dico Picasso perché pur essendo francese certo, prende il nome dal noto pittore certo, cubista, quindi spagnolo, la C3 Picasso non è altro che la versione monovolume della C3. Infatti Picasso è diventato un po' il sinonimo di monovolume per quanto riguarda Citroën. Abbiamo già visto la Xara Picasso, poi la C4 Picasso e adesso la C3. È molto diversa dalla macchina da cui deriva, la C3 infatti è tutta tonda, tutti la conoscono perché è stata un po' una rivoluzione tra le macchine piccole da città. La C3 Picasso invece è squadrata nella parte dietro, quasi cubica direi, e con un aspetto quasi da fuoristrada davanti, perché ha un cofano molto alto, parafanghi importanti e quindi un aspetto abbastanza massiccio. Molto bene, più sintetico di così è impossibile, bravo Andrea, e adesso gli facciamo seguire la scheda preparata in redazione sulla Citroën C3 Picasso, come dicono in Francia, Picasso. Molto stile e tante soluzioni pratiche a partire dai montanti anteriori. Pensata soprattutto per una famiglia con bimbi piccoli, la piccola monovolume piace e si rivela molto comoda e versatile. Il suo punto di forza è l'abitabilità, ma sono ottime anche le prestazioni. Soprattutto con il turbo diesel più potente, che però beve un po' troppo. Nome, Citroën C3 Picasso 1600 HDI, 110 cavalli, FAP Exclusive Style. Carrozzeria, 5 porte, 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,07 m, larghezza 1,73 m. Motore: anteriore trasversale, diesel a 4 cilindri, cilindrata 1560 cc. Potenza: 109 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo: 20.901 euro. Ecco, questi sono i temi principali di quest'auto con le caratteristiche fondamentali. Saliamo in sella, se fosse una moto, o saliamo a bordo, essendo una macchina. Andrea, ci racconti le impressioni intanto di guida per arrivare poi al comfort e all'affidabilità, che sul sito ho scritto sono due delle parole chiave per capire profondamente quest'auto. Sì, innanzitutto salendo a bordo la prima cosa che si vede prima ancora che una sensazione di guida è proprio la sensazione dell'ottima visibilità e quindi sì, padroneggiare il traffico, la strada, tutto attorno a sé, perché la novità più importante di questa macchina, della C3 Picasso, è di avere i montanti anteriori sdoppiati. La parte massiccia è molto arretrata e non dà assolutamente fastidio nelle svolte a sinistra o a destra. La parte più snella è quella più avanzata. In sostanza si ha la sensazione di essere circondati solo da una bella vetratura che dà una visibilità perfetta. Al volante poi diciamo che è molto bella da guidare. La versione che abbiamo provato noi è la 1600 HDI, quindi col turbo diesel, sì, da 110 cavalli, molto potente, molto pronta, una ottima accelerazione e soprattutto un'ottima ripresa in quinta. Molto bene. Per quanto riguarda invece il comfort, dicevi prima, tanto oltre alla prima impressione, poi c'è una capacità di carico notevole. Sì, la C3 Picasso ha davvero un ottimo bagagliaio e soprattutto è facilissimo da utilizzare perché ha un sistema di ribaltamento dei sedili dietro molto semplice, con una mano sola si possono buttare giù praticamente gli schienali dietro. Di solito bisogna prima alzare la seduta dei sedili posteriori, appunto, in questo caso invece il meccanismo rende tutto più semplice e poi la stessa forma cubica di quest'auto assicura il maggior volume possibile. Molto bene, c'è un grande sforzo negli studi di progettazione e design delle case automobilistiche effettivamente per quanto riguarda l'ergonomia, quella capacità funzionale di utilizzare un oggetto, e forse ci voleva, perché 10-20 anni fa le auto erano sì più spartane, però non avevano quella capacità di essere utilizzate con facilità, salvo qualche cruscotto che oggi diventa sempre più complicato in termini di approccio ai bottoni, alla digitalizzazione, eccetera. Per cui ogni tanto si nostalgicamente, no, ci manca quella facilità di uso di 20 anni fa, ogni tanto però ci rendiamo conto che quello che c'è oggi a bordo di un'auto 20 anni fa lo sognavamo. Questo va detto ad uso di tutti coloro che utilizzano l'auto e magari se lo chiedono poco. Andrea, sentiamo insieme agli ascoltatori la scheda della pagella e torniamo per salutarci. Posto guida, molto spazioso, panoramico e comodo. Si domina la strada dall'alto e si gode dell'eccezionale apertura delle superfici vetrate. Il sedile è regolabile a piacere con comandi manuali, come il volante, anche in profondità. Voto 4 stelle. Finitura. Deriva dalla spartana e un po' invecchiata C3, ma la versione Picasso è tutta un'altra cosa. Plastiche morbide sulla plancia, assemblaggi ben eseguiti, scelta dei materiali di buon livello. Questa è una monovolume sfiziosa. Voto 4 stelle e mezzo. Comfort. La scuola francese, e Citroën in particolare, difficilmente si smentisce. La C3 Picasso è decisamente comoda e supera senza grossi problemi il nostro tracciato del comfort. L'abitacolo è ben insonorizzato, voto 4 stelle. Motore, uno dei migliori turbodiesel in circolazione. Il 1.6 HD da 110 cavalli è sempre pronto e gradevole nell'erogazione. Adeguato anche a una vettura con una sezione frontale come questa, a differenza del 90 cavalli, ha pure il FAP, voto 4 stelle e mezzo. Su strada, ammesso che una monovolume si possa scegliere per il puro gusto di guidarla, la C3 Picasso si rivela comunque sempre gradevole e sicura. La morbidezza delle sospensioni provoca un lieve dondolamento posteriore. Voto 4 stelle e mezzo. Allora, questa era la pagella che dava i voti alla nostra Citroen C3 Picasso. Chiudiamo con Andrea Sansovini di 4 ruote, con due pregi e due difetti di quest'auto. Allora, tra i pregi della C3 Picasso ci sono senz'altro la visibilità anteriore e lo spazio a bordo, sì, nel doppio senso, cioè dell'abitabilità e del bagagliaio dietro. Tra i difetti invece noi abbiamo notato nelle prove in pista dei consumi un po' alti, ma questo è dovuto appunto alla notevole massa della C3 Picasso e al motore comunque, che è il turbodiesel più potente a disposizione. Con 90 cavalli probabilmente i consumi sarebbero stati un po' inferiori. E poi la posizione della leva del cambio, che è un po' arretrata. È possibile trovare tutto quanto detto sul sito internet radio24.it, comprese le schede che avete ascoltato di quest'auto. Grazie davvero ad Andrea Sansovini di 4 ruote, a presto e buona serata. Buona serata a tutti gli ascoltatori. Terminata la nostra prova, adesso ci occupiamo del codice della strada. Sapete che ci fa compagnia ogni settimana l'avvocato Erika Lievore di Milano. Buonasera avvocato, bentornata. Buonasera a lei, ascoltatori. Imbracciamo il codice della strada, cerchiamo di conoscerlo dal punto di vista pratico, conoscerlo per evitare gli errori. Questo potrebbe essere il titolo di questa rubrica. Naturalmente potete scrivere all'avvocato attraverso la nostra mail, l'indirizzo è semplice, 4 scritto in numeri, ruote, @radio24.it. Avvocato, ci ha scritto un ascoltatore per chiederci di un caso davvero particolare. Dunque, è stato fermato dalla polizia municipale e multato perché praticamente ha usato i fari lampeggianti, dove io credo che intenda gli abbaglianti, per segnalare al veicolo che lo precedeva che era scattato il semaforo verde. Che cosa dice il codice della strada a proposito? Allora, l'articolo 152 del nostro codice della strada prevede che innanzitutto sui temi che riguardano i dispositivi di segnalazione e di illuminazione dei veicoli, fuori dai centri abitati e comunque durante la marcia è obbligatorio l'uso delle luci di posizione e delle luci anabbaglianti, oltre che delle luci di targa. L'articolo 153, sempre sullo stesso tema, prevede che obbligatoriamente invece da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del suo sorgere, ma comunque anche quando ci troviamo in una galleria o in un caso di nebbia, neve o forte pioggia, o comunque in caso di scarsa visibilità, queste luci debbano obbligatoriamente essere tenute accese, quindi sia luci di posizione che luci anabbaglianti, sì, che luci di targa. Molto bene. Di giorno invece, se siamo in difficoltà, oltre alle luci di marcia possiamo usare qualcos'altro? Allora, di giorno, sempre in caso di nebbia o di foschia o di nevicato, di comunque di pioggia intensa, potremmo eventualmente sostituire le luci anabbaglianti con le luci fendinebbia anteriori. In caso di nebbia con una visibilità inferiore ai 50 metri e comunque con una fitta nevicata, una forte pioggia, potremmo usare la luce posteriore per nebbia nel caso in cui il nostro veicolo ne fosse dotato. In tutti gli altri casi in cui ci troviamo con un'illuminazione esterna non sufficiente o addirittura inesistente, sempre fuori dai centri abitati, potremmo usare le luci abbaglianti. Queste, in ogni caso, sempre per quanto prevede il nostro codice della strada, dovranno essere spente e passare quindi a luci anabbaglianti quando in ogni caso incontriamo un altro veicolo, certo, in croce con altri veicoli, quando seguiamo un altro veicolo a breve distanza e comunque in tutte quelle circostanze in cui ci sarebbe il pericolo di abbagliare un altro utente della strada. Peraltro in questi casi le disposizioni del nostro codice sono abbastanza aspre, perché si va incontro a una sanzione amministrativa che va da 74 a 296 euro, oltre a una detrazione di 3 punti della patente. 3 punti sulla patente, se lo mettono in testa tutti coloro che hanno il grilletto facile, come dico io, chi viaggia tanto lo sa quanto sia fastidioso avere dietro delle luci che abbagliano, danno fastidio, figuriamoci quando incontri un'altra auto. Dobbiamo chiudere velocemente per l'uso degli abbaglianti a intermittenza, come il nostro ascoltatore, quindi che cosa gli possiamo dire? Allora, diciamogli innanzitutto che il quarto comma dell'articolo 153 stabilisce solo 2 casi in cui è consentito l'uso dell'abbagliante ad intermittenza, vale a dire al fine di evitare un incidente o quando si vuole segnalare al veicolo che ci precede l'intenzione di sorpassarlo. In questi 2 casi è possibile l'uso dell'intermittenza in deroga a quanto abbiamo detto prima, anche nei centri abitati. E quindi si può concludere che il nostro ascoltatore ha sbagliato, è sanzionabile, e chi tra l'altro lampeggia anche per altri motivi, per selezionare dei dettagli della strada, dei cartelloni, per informare gli altri veicoli di qualsiasi cosa, insomma, va incontro ad una multa da 36 a 148 euro, e in più c'è anche la detrazione in questo caso di 1 punto della patente, quindi vietato lampeggiare in questo senso. Avvocato Lievore, grazie di cuore, il suo intervento si riascolta su radio24.it, buona serata. Grazie a lei, buonasera. Quattro ruote e dintorni. Da 4 settimane stiamo svolgendo qui su Radio 24 un'inchiesta ufficiale sulle assicurazioni online che stanno andando fortissimo nonostante il momento di mercato. Sarà perché costano meno, sarà perché sono meno ingombranti, qualcuno le accusa di non avere servizi all'altezza, però fatto sta che i fatturati delle compagnie sono volati nel 2008 e tutto sembra che ci dica che quest'anno anche veda grandi risultati. E allora alla quarta puntata noi ospitiamo questa volta Genertel nella persona dell'amministratore delegato Davide Passero. Buonasera, dottor Passero. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie della sua presenza. Per raccontarci innanzitutto chi è Genertel, di che gruppo fa parte, insomma ci racconti un po' la vostra storia. Beh, Genertel fa parte del gruppo Generali, è stata la prima compagnia diretta, cioè online, ad operare in Italia dal lontano 1994, sì, proprio all'inizio della liberalizzazione del mercato, e siamo oggi la prima compagnia anche in termini di quota di mercato. Ecco, tanto per dare dei riferimenti, quali canali voi utilizzate? Immagino un po' tutti quelli degli altri e gli altri dei vostri, no? Diciamo che il canale principe su cui è nata Genertel e sul quale fonda la sua forza è il canale telefonico, nel senso che uno dei nostri punti di forza è proprio quella di dare grande assistenza al cliente. Poi abbiamo naturalmente internet e stiamo progressivamente anche allargando a canali non tradizionali, abbiamo accordi con banche ma anche con operatori internet come eBay piuttosto che con la grande distribuzione. Decisamente. Allora cerchiamo di capire quindi i vostri prodotti principali, naturalmente RC Auto e poi? Dunque, RC Auto è naturalmente il prodotto principe da sempre, e con l'RC Auto tutte le garanzie a completamento dell'offerta per l'assicurazione auto. Poi naturalmente offriamo assicurazioni sulla casa, sì, di viaggi, e proprio recentemente abbiamo avviato anche una sperimentazione sui prodotti vita, in cui pensiamo vi sia un grande spazio di mercato in Italia. Lei sa che qui in questa sede ci occupiamo di motori, quindi rimaniamo, certo, su quella. Le chiedo per l'RC Auto che tipo di divisione, almeno a spanne, se ce la può indicare, percentuale avete fra chi utilizza online, chi utilizza il telefono, chi predilige il contatto diretto in qualche modo? Allora, in termini termini di informazione, l'informazione è prevalentemente online, vale a dire tre preventivi su quattro sono fatti sul web e uno su quattro al telefono. In termini poi invece di contratti, cioè quindi di intenzione all'acquisto, l'intenzione all'acquisto al telefono è molto più forte, per cui quando andiamo a misurare proprio chi ha comprato, vediamo che web e telefono si bilanciano sostanzialmente. Molto bene, lei sa che le è stato fornito un elenco di tre profili, lo spieghiamo anche agli ascoltatori che non ci avessero sentito nelle settimane precedenti, con quattro ruote abbiamo stilato tre profili, quindi sapete che una persona di una certa età, di una certa professione a Milano paga un premio annuale diverso che se abitasse per esempio a Catania, per dirne una. Abbiamo identificato Milano, Roma e Palermo, molto banalmente, scusateci, ma sono poi le informazioni più indicative dei settori regionali perché riguardano evidentemente più persone. Andiamo con il primo profilo, mi piacerebbe sapere quanto paga DRC Auto con un massimale da calcolare di almeno 1,6 milioni di euro. Dottor Passero, un quarantenne a Milano, uomo, residente a Milano, libero professionista per la sua BMW X5 3000 diesel catalittica del 2005, la classe di provenienza è la dodicesima, la guidano tutti in famiglia tranne giovani sotto i 26 anni. Quanto gli facciamo pagare con Genertel? 569 euro. 569 euro, ricordiamo agli ascoltatori che tutti questi dati confluiranno in una tabella che sarà presente a fine inchiesta sul nostro sito, tanto per avere un riferimento di tutti i 7-8 principali competitor sul mercato. Profilo B, sessantenne, donna questa volta, residente a Roma, casalinga, la sua Panda è un 1100 benzina del 2006, proviene dalla classe quinta perché ha avuto pochi incidenti o perché guida da tanti anni, la guidano tutti tranne i giovani sotto i 26 anni. Quanto le fate spendere? In questo caso siamo a 345 euro. 345 euro, ricordiamolo, è un premio annuale, vero? Certamente. Non semestrale. Semestrabilizzabili i vostri premi anche, vero? Si possono pagare in rate semestrali, certo. Ok, profilo C, il più difficile, lei se ne rende conto più di noi, il 18enne uomo residente a Palermo, è uno studente, ha comprato l'anno scorso nel 2008 una Ford Fiesta 1200 benzina, la classe di provenienza è la sua prima auto, quindi mi fa due ipotesi, la prima è per la 14esima, la classe di entrata, la seconda invece se il papà avesse una classe 1 per esempio e quindi fosse agevolato grazie al decreto Bersani. Allora, nel primo caso parliamo di 1261 euro che si riducono a 501 nel secondo caso beneficiando evidentemente del cosiddetto decreto Bersani, appunto. Molto bene, direi di chiudere con un commento sul decreto Bersani, vi trova favorevoli, avete difficoltà ad affrontare in certe regioni questo decreto voi? Ma difficoltà in certe regioni specifiche direi di no. Naturalmente è un decreto che è molto popolare, diciamo così, mutualizza i rischi perché non è vero che avendo più auto in famiglia se ne guida una alla volta, se ne guidano più contemporaneamente, quindi come dire, si fa mutualità fra i vari componenti della famiglia da un lato e i vari assicurati sul territorio nazionale dall'altro, naturalmente. I consumatori almeno in questo risparmiano qualche cosina, insomma, immagino che siano contenti, noi siamo contenti almeno se ci fosse in famiglia, sì. Beh, è chiaro. Loro sì, ma chi ha un'auto sola no, perché paga più che è un'auto sola, evidentemente. Decisamente. Grazie davvero a Davide Passero. Chiudiamo con il vostro sito e ci salutiamo. Il nostro sito naturalmente è www.genertel.it. Buona serata e grazie. Grazie a lei. Adesso ci occupiamo di un argomento che trattiamo troppo poco, lo dico anch'io colpevolmente, non è facile sentir parlare di parabrezza in giro perché si dà per scontato che ogni auto abbia il suo e finché non viene rottamata dopo anni e anni il parabrezza non si tocchi, eppure a forza di pubblicità, di spot e di comunicazione gli installatori ci hanno fatto capire quanto sia importante ad ogni piccolo problema portare subito l'auto a far vedere, cerchiamo anche di capire che cosa succede nel momento in cui ci si dovesse rivolgere al sostitutore sbagliato, quindi ad un professionista non all'altezza. Lo facciamo in compagnia del presidente della PVA, un'associazione professionisti vetri auto, oggi presieduta da Alessandro Oliveto. Caro presidente, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Allora, durante il recente Motor Show, recente per modo di dire a dicembre, è stato diffuso un video shock, l'avete definito voi, che è stato trasmesso dall'ABC News. Lei potrebbe richiamare l'attenzione su questo video. Partiamo da qui, così ci racconta il video. Assolutamente, perché il video è diventato lo strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema reale. l'evoluzione tecnica dell'installazione del parabrezza ha ovviamente modificato le esigenze, le necessità per fare questa operazione in assoluta sicurezza. Il video racconta di un caso in cui un cattivo montaggio, una cattiva installazione ha generato un danno non mortale, ma ha reso quadriplegica la persona che poi ha fatto questa denuncia, è stato trasmesso su un canale nazionale come ABC appunto. La specificità del video ci permette di parlare con più dettaglio di che cosa significa sostituire un parabrezza per l'auto, di un'auto oggi. Senta, che cosa vuol dire? Intanto dipende dalla professionalità, dalla capacità, dalla competenza di coloro a cui mettiamo nelle mani la nostra auto. A chi dobbiamo rivolgerci noi automobilisti e di chi sospettare invece? Allora, assolutamente bisogna rivolgersi a degli specialisti, cioè persone che sono state addestrate a riconoscere i prodotti e a riconoscere i sistemi di installazione. L'associazione, appunto il PVA, che è l'Associazione Professionisti Vetri per Auto, tende a sviluppare questo tipo di sensibilità e di metterla anche al servizio dell'utente finale. In che modo lo fa? Lo fa molto semplicemente, lavorando su due livelli. Il primo è quello degli specialisti, appunto, tutti gli specialisti che prima si associano e poi si certificano devono aderire, partendo da un codice deontologico, ad una serie di standard tecnici. Sì. A noi piace dire, ci piace elevare il livello di professionalità. Questo perché? Perché montare un parabrezza oggi significa mettere le mani su una parte strutturale della vettura. Ormai il parabrezza serve a sostenere il tetto in caso di schiacciamento. Ecco, è questo che spesso non sappiamo. No? Pensate, il parabrezza serve anche a sostenere il tetto in caso di schiacciamento, quindi di ribaltamento. È proprio una funzione strutturale, oltre che di riparo dal vento e dagli oggetti, evidentemente di insonorizzazione anche. Assolutamente, il parabrezza in inglese si chiama windscreen, appunto antivento, ma anche in italiano parabrezza. Nella realtà questa funzione è finita all'inizio degli anni 80, quando i metodi di installazione sono diventati con dei fissaggi a colla e non più con una guarnizione che serviva veramente solo per riparare l'aria. Attualmente servono per far appoggiare l'airbag quando esplode, tenendo conto che un airbag full size, cioè quelli che coprono tutto il vano del cruscotto, arrivano a 120 kg per centimetro quadrato di pressione, quindi un valore estremamente elevato, e in caso di schiacciamento l'alleggerimento delle auto per il risparmio energetico, al punto che adesso alcune hanno lo chassis addirittura in alluminio, ha reso necessaria che la parte incollata e il vetro dessero sostegno alla struttura. Molto bene, senta, un'ultima cosa, possiamo trovare il video da qualche parte sul web o è difficile? Assolutamente, sul web il sito è www.apva.it, sul sito nell'area video potete trovare il video da vedere, che ovviamente è particolarmente interessante, e una funzione molto importante, nell'area professionale ovviamente ci sono tutte le indicazioni per i professionisti, ma nell'area pubblica ci sono tutte quelle informazioni che permettono all'utente finale di riconoscere un professionista, cioè un centro che si è associato o certificato alla PVA e tutti gli installatori che hanno già effettuato i test di certificazione tecnica. Molto bene, ricordiamo allora www.apva.it nella sezione video. Grazie davvero ad Alessandro Oliveto, il presidente dell'omonima associazione. A presto e buona serata. Grazie a voi. Quattro ruote e dintorni. Allora, come promesso, dobbiamo riportare qualche notizia fresca dal Salone di Ginevra. Si è aperto il 5 marzo, va avanti per il pubblico fino al 15. Torna fresco fresco da Ginevra Daniele Sparisci di Quattro Ruote. Caro Daniele, buonasera, bentornato. Buonasera Roberto, a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Con Daniele, con il presidente della fondazione del Ginevra Expo, con il direttore generale del Salone, abbiamo fatto un'inchiesta che trovate ancora sul sito radio24.it già due settimane fa, con le principali anteprime, ma oggi è giunto il momento di parlare delle novità che Daniele ha visto di persona a Quattro Ruote. Iniziamo subito con la Ford, questo Yosys Max. Che cos'è e dimmi se ti ha interessato. Sicuramente è uno uno delle concept più interessanti proposte al Salone, che arriveranno a breve, perché prefigura la nuova C-Max, quindi una monovolume compatta presentata ancora in forme molto futuribili ma concreta, spaziosa, che va a ritagliarsi uno spazio in quel segmento delle monovolume che in Europa è in grande crescita, in grande espansione. Molto bene, passiamo adesso al gruppo Fiat, ha presentato la 500 Cabrio e la Mito GTA. C'era interesse, Daniele, che tu hai visto intorno ai padiglioni Fiat? Forse una delle presentazioni più spettacolari è stata proprio quella della 500 Cabrio, anzi a detta degli addetti ai lavori è stato in un anno abbastanza sottotono, malgrado le grandissime presenze a Ginevra, è stata la presentazione più spettacolare, con la 500 che spuntava da un cilindro e in uno stand Fiat caratterizzato da prati inglesi e quant'altro. E la 500 Cabrio ha riscosso l'attenzione dei presenti, della stampa, e anche perché torna a 50 anni di distanza da come era nata, quindi con la classica cappottina in tela. Decisamente. Senti, Nissan ha presentato questo Kadzama. Nissan piace tantissimo per il Qashqai, un SUV di medie dimensioni richiestissimo. Il Kadzama che cos'è? Il Kadzama è una crossover, un termine molto in voga ormai dall'industria automobilistica, quindi un'auto un po' a metà tra un SUV, una monovolume, una station wagon, con un assetto particolarmente rialzato rispetto alle berline, presentata ancora in forma di concept, quindi con parecchi elementi da rivedere, che però segna un nuovo modello che arriverà entro un anno, insomma. Certo, se la Volkswagen ha presentato la nuova Polo, dammi due parole sulla Nano della Tata. La Nano per l'Europa è una vettura sicuramente molto interessante, perché così come è stata presentata al Salone di Ginevra prefigura un qualcosa di completamente nuovo, una vettura a 5.000 euro che è anche uno stile, può essere graziosa. Staremo a vedere ovviamente quale sarà la versione di produzione, perché poi ci potrebbero essere dei cambiamenti. Certo. Certo, è molto diversa da quella vettura che ha il compito di motorizzare le grandi masse in India. Senti, se la Renault Scenic ha fatto parlare di sé, noi lo abbiamo fatto 2 settimane fa, volevo anche sentire chi andrà a Ginevra fino al 15 marzo che cosa troverà a livello di sogno, auto da sogno, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini. Ecco, Ginevra quest'anno è stata proprio caratterizzata da una vera e propria pioggia di cavalli, supercar per tutti i gusti e tutte le taglie. Innanzitutto io partirei con la Rolls Royce 200X, che è la piccola, se si può definire piccola, un'auto lunga 5,40 m con un motore V12 che costerà 250.000 euro. Però per gli standard regali della Rolls-Royce questo è il piccolo ed è un'auto completamente nuova, che ha un design anche molto, molto diverso, molto più muscolare, perché il pubblico è cambiato, non sono più solo i nababbi e i principi a comprare Rolls Royce, ma anche calciatori e quant'altro. Ferrari 599 XX e dobbiamo chiudere poi. Sì, si tratta di una supercar omologata, non omologata per l'uso stradale e rivolta ai più esclusivi clienti di Maranello, che svilupperanno un programma su pista, una vettura con tecnologia derivata dalla Formula 1 a 700 cavalli e un'elettronica dedicata. Figuriamoci. In 20 secondi ti chiedo un commento sulla Morsielago superveloce della Lamborghini. Anche qui la Lamborghini si è spinta oltre presentando una Morsielago ancora più potente, 670 cavalli, velocità massima 342 km orari. Insomma, i dati parlano da soli. Mamma mia, macchina da pista. Grazie di cuore a Daniele Sparisci per Ginevra, a prestissimo e buona serata. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, grazie a Daniele Sparisci di Quattro Ruote, che ritroveremo per i prossimi eventi importanti in giro per il mondo. Degna conclusione di un puntatone ricco come questo è un'avventura. Tiriamo fuori allora dal cappello i dintorni del nostro titolo e la trasmissione di oggi si conclude con una vera avventura, la prima di 2 puntate in sella d'una moto in Africa e sull'Himalaya. Vorrei presentarvi Fulvio Dodice. Buonasera Fulvio. Buonasera Roberto. Grazie per averci raggiunto negli studi di Radio 24. Fulvio Dodice è stato stato per tanti anni amministratore delegato di Ferretti Yacht, una delle grandi realtà della nautica mondiale, e forse ve lo ricordate, è stato più volte nostro ospite per raccontarci il funzionamento preciso dei motori marini. Oggi non parleremo di mare, parleremo neanche di barche, bensì di moto. Abbiamo scoperto in Fulvio, un grandissimo appassionato di motori, che l'ha combinata grossa. Pensate che ha organizzato da solo un viaggio davvero avventuroso in sella della sua moto, e lo portiamo a conoscenza vostra, perché questo può essere di stimolo per tutti gli appassionati del fuoristrada a due e a quattro ruote che volessero da soli una vacanza molto speciale. Non è un ride di competizione, non è una scampagnata nelle valli della Maremma. Chiediamo a lui che cos'è, Fulvio, esattamente che cosa ha combinato. È un viaggio che risponde allo spirito di esplorazione, alla voglia di veramente esplorare e di soddisfare proprio la voglia di vedere cose nuove in posti strani. Un grande viaggio, un raid allo scopo però di vedere cose vere in Namibia. Abbiamo diviso questo tuo intervento in due puntate, la prossima sarà in onda sabato prossimo sempre a quest'ora. La prima è dedicata alla Namibia e la prossima all'Himalaya, il tutto fatto su due ruote da solo, perché questa era l'idea che è già stata realizzata al 50%. Oggi siamo qui a raccontare ciò che è stato, cioè la Namibia. Quando nasce questa idea e con che mezzo? Perché? Nasce con un mezzo pesante per scelta, un BMW GS1200 Adventure che io avevo comprato proprio con in testa i grandi viaggi, i grandi raid non vissuti come competizione ma vissuti come esploratore. Una moto pesante, con dei limiti ma con una grandissima affidabilità. Io avevo accettato appieno il fatto di dover viaggiare con 300 kg a pieno carico e fa parte della mia filosofia del viaggio. La comprai con in testa il deserto, in realtà. Feci un primo viaggio in Tunisia in novembre del 2006. Il viaggio non finì benissimo. Due giorni prima della conclusione di questo raid mi intraversai in una traccia, lasciata un fuoristrada che si era impantanato, e mi ruppi il radio e l'ulna. Ai, quindi hai avuto contatto anche con quelli che sono i pericoli, no, del fuoristrada. Contatto è il termine esatto, tant'è che mi sono sbriciolato radio ulna, come dicevo, mi sono dovuto auto recuperare da solo perché il viaggio era in autosussistenza, quattro motociclette uguali, e uscire da questi problemi avvalendomi di tutte quelle vie d'uscita, di quelle emergency exit che io mi creo sempre quando faccio i viaggi. Ecco, approfondiamo questo sistema, perché qualcuno può dire, beh, insomma, andare in Africa è da pazzi, no? Punto, i soliti moralisti. Noi non siamo gente che ovviamente avvalla queste tesi, ma neanche quelli che spingono la gente a fare delle avventure senza la possibilità di quelle emergency exit, come le chiamate tu. Come si organizza un viaggio che è di per sé pericoloso, per definizione, rischiando il meno possibile? Il viaggio certamente pericoloso è una sfida, ma sfida non vuol dire suicidio, è un'altra cosa. Quindi si organizza incominciando a cercare tutta una serie di cose, tutta una serie di informazioni che sono disponibili dai fuoristradisti, i siti dei fuoristradisti, per esempio www.sara.it, oppure ancora il blog di www.quellidellelica.com, il più grande blog di BMW non ufficiale, in cui si può trovare più o meno di tutto, e si cercano informazione. Poi le si coniugano, perché i fuoristradisti hanno quattro ruote e tu ne hai due, quindi non chiaro, è detto che chiaro. Tutto quello che ti raccontano vada bene anche per te. E poi la ricerca della cartografia. Io viaggio con dei navigatori della Garmin, c'è una cartografia ufficiale e a volte anche non ufficiale ma compatibile, che è assolutamente ricchissima, e incominci a costruirti un data room, una serie di informazioni importantissime in cui raccogli tutto quello che ti serve per il viaggio. E prevedi tutto ciò che può succedere, con le emergency exit, cioè se cado e mi si ferma la moto, se ha un problema di affidabilità, se mi sento male io, quindi un medico a disposizione. Insomma, è chiaro che questa è la vera organizzazione. Per questo dura mesi la preparazione. Dopo il 2006, mi pare, questo viaggio che hai fatto nel 2006, è giunta l'ora della Namibia. E qui raccontiamo la Namibia. Quanto è durato quel viaggio? Quanto ti è costato a livello di preparazione? Il viaggio è durato enormemente poco rispetto ai mesi di preparazione, perché sono 11 giorni, compresi il tempo perso per sdoganare la moto, spediti in aereo in una cassa particolare, e risdoganare la moto per poterla rispedire. Quindi per un viaggio di 11 giorni, circa 10-11 mesi di preparazione. Certamente non un lavoro a tempo pieno, perché il mio lavoro è un altro. Chiaro. ma un lavoro impegnativo di raccolta di tutte quelle informazioni che dicevo prima e di cui fa parte anche una cosa un po', io la chiamo cinese, perché sui navigatori, io ne ho due sulla moto, uno che mi fa da navigatore di scorta e uno principale. In realtà tu pretracci il percorso che farai, ma i navigatori non sono routable come quelli che tradizionalmente si hanno nelle automobili, quindi tu per punti devi tracciare quello che farai. Quanti punti hai raccolto in realtà poi durante il viaggio? Poi ho raccolto i punti che ho messo a disposizione di Alti, 47.000 punti in 10 giorni. Pensate, perché ogni 5 secondi, ogni 5 secondi viene tracciato un punto. Quanti chilometri hai percorso? E per esempio ti chiediamo anche l'autonomia della moto, come facevi a portarti dietro benzina quando non la portavi e non la trovavi in giro? In realtà, incominciamo dai chilometri, 3.400 di cui per scelta 2.850 di sterrati anche difficili, con delle tappe mediamente di 400-450 km al giorno. Quindi molto pesanti, arrivavi a sera che eri veramente distrutto, veramente sì, quasi mimetizzato con il terreno, del colore del terreno, docce fredde, immagino, docce in mezzo fredde all'Africa. Perché non c'era sempre acqua calda, dormivi in tenda qualche volta in albergo, però fa parte del viaggio una cosa meravigliosa. Va detto che era seguito da una macchina in alcuni punti che portava l'attrezzatura video, perché tutto il viaggio è stato documentato video fotograficamente. Verissimo, anche se in realtà ci si vedeva relativamente poco, perché la velocità della moto rispetto a quella dell'auto è diversa. La moto deve viaggiare volando sulle tracce, tu hai questa sensazione di non toccare mai il terreno, ed è vero. Molto bene, senti Fulvio, devo fermarti, andremo avanti con la chiusura di questa bellissima avventura in Namibia fra 7 giorni esatti, e poi arriva la seconda parte di questo viaggio, che è la preparazione della prossima meta. Addirittura si è deciso qui di andare sull'Himalaya in moto, con le stesse modalità o simili a quelli dell'Africa. Fulvio Dodici, grazie davvero, buona serata e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata anche a voi. Lo ritrovate qui su Radio 24 fra 7 giorni esatti e con lui trovate tutta una serie di ospiti che vi aspettano alle 21.05 ogni sabato. Giacomo è stato con me in regia, Roberto Rasia in voce, vi saluta, vi ringrazia e vi augura soprattutto buona guida.